parte del nostro capitoletto, che sarà il 49. Subito dopo, quello che avevamo lasciato, ecco, voi ricorderete che avevamo analizzato l'ultima volta un colloquio molto interessante tra Charles e sua madre, considerando questo rapporto tra madre e figlio, quando il figlio si sposa, poi sfugge alla madre, e quindi quando poi la fattispecie viene abbandonata, come in questo caso rimane vedovo, la madre cerca di rimpadronirsi del figlio, e lo fa con una furbizia doppia, una furbizia femminile e una furbizia materna. Già tutte le suocere di questo mondo vedono male le uova, è un luogo comune, ma non è solo un luogo comune, è una realtà. Tutti i generi sono sempre odiati dalle suocere, nel senso che è un atteggiamento doppio, nel senso che gli ha portato via la figlia e le uova gli ha portato via il figlio, ma al tempo stesso una mamma s'angoscia, spasima se la figlia o il figlio, o più la figlia, rimane in casa, come si suol dire, no? Sulla accollata ai genitori. Cosa farai quando saremo morti? Questa è una delle frasi che normalmente le ragazze si sentono dire in casa, no? Quando non ci saremo più, come farai, come te la caverai, eccetera. È nel colloquio con la madre che nasce il nuovo personaggio di Charles. Forte, risoluto, e fate caso come Flaubert, questo è uno dei colpi di genio del romanzo, lo costruisce solo a partire da un certo momento, cioè a partire appunto dal momento della morte di Emma. Cioè è come a dire, in altri termini, che la maturità una persona riesce, la maturità, comunque un cambiamento di vita, riesce a conquistarla solo dopo un watershed, come si dice, uno spartiacque, no? E allora quest'uomo stupido, molle, devoto a una moglie che non l'ama, diventa coraggioso, assolutamente risoluto nelle sue idee, diventa un personaggio di straordinaria grandezza dopo che è morta e dopo che si trova tutto intorno delle persone che cercano di denigrarla. Ma intanto, da un punto di vista logistico, Emma aveva una bambina, una figlia. Che cosa succede della figlia? Allora, in questo capitoletto 49, che intitoliamo 49, intitoliamo, non ha un po' di acqua, no? La beva, perché questo dà felicità a lei stessa e a me. Ha capito in che senso? La doppia felicità, no? Dunque, e il 49 si intitola I debiti. O meglio ancora, piuttosto che i debiti, diamogli un aspetto più icastico, debiti, punto esclamativo. Charles l'indomani fece tornare la piccola e la chiese di sua madre, le rispose che non c'era e che le avrebbe portato dei giocattoli. Vorrei stare zitti, ragazzi, non dire neanche mezza parola. Se no non si riesce a leggere. E le risposero che era assente, che non c'era, che gli avrebbe portato dei giocattoli. Bert ne riparlò parecchie volte e poi, col tempo, non ci pensò più. L'allegria di questa bambina straziava allora lì e doveva subire le intollerabili consolazioni del farmacista. I problemi di denaro ben presto ricominciarono. Monsieur Leroux aizzava di nuovo il suo amico Vinsart e Charles si impegnò per somme esorbitanti. Infatti mai volle consentire riuscite a lasciar vendere il più piccolo dei mobili che erano appartenuti a lei. Sua madre fu esasperata. Egli si indignò ancora di più di lei. Aveva, attenzione a questa bellissima frase, il avait changé tout à fait. Era cambiato completamente. Lei se ne andò da quella casa. Allora ognuno cominciò a approfittarne. Mademoiselle Lampereur reclamò 6 mesi di lezione, sebbene Emma non ne avesse mai presa una sola, malgrado quella fattura rilasciata che aveva fatto vedere a Bovary. Era un patto fra loro due. Il noleggiatore, l'affittuario di libri, i bibliotecari, diciamo così, i bibliotecari, reclamò 3 anni di abbonamento. Mamma Rouet protestò di aver portato una ventina di lettere a chi, evidentemente, a Rodolfo, no? Aveva fatto da messaggero. E siccome Charles domandava spiegazioni, ebbe la delicatezza di rispondere: ah, non ne so niente, erano per affari suoi. A ogni debito che pagava, Charles credeva di aver finito, ne sopravvenivano altri continuamente. Egli volle richiedere l'arretrato di antiche visite, dimostrarono le lettere di sua moglie, quelle che aveva inviato. Allora bisognò fare delle scuse. Felicité portava adesso i vestiti della signora, non tutti, perché lui ne aveva conservato qualcuno e andava a vederlo nel guardaroba dove si chiudeva. Lei aveva quasi le sue misure e spesso Charles, vedendola da dietro, era preso da un'illusione e ripeteva: oh, resta, resta. Ma a Pentecoste lei se ne andò via da Yonville, sposata a Teodoro e rubando tutto quello che era rimasto dei suoi vestiti. Vediamo questo passo in cui notiamo anzitutto una tendenza molto interessante, che è questa. Quando, nell'ottica di Flaubert, quando la tragedia inizia, non ha più fine. Non ha più fine. E la tragedia poi in che cosa consiste spesso? Nelle persone che rimangono sole dopo una morte, no? Consiste in un disastro economico. Quest'idea della disgrazia affettiva unita alla disgrazia economica è estremamente presente in Flaubert. Ricorderete un grande libro, uno dei pochi grandi libri romanzi italiani che avrete letto a scuola, mi auguro, che è Il Malavoglia di Berga. Chi l'ha letto, Il Malavoglia? Ecco, bene. Che è il libro che si legge, come tutti i libri purtroppo della scuola, quando si sei ancora troppo piccoli per poter capirli veramente, insomma, ma è un libro grandissimo, senza dubbio, in cui la barca con i lupini che affonda è l'inizio di una tragedia, questo non c'è dubbio. Quando una tragedia comincia non se ne esce più, qui è cominciata una tragedia e adesso ci sono i creditori che vengono fuori a chiedere soldi. Ma intanto cominciamo dall'inizio. Ricordate il principio, come dire, che abbiamo scoperto in Flaubert: tutti i personaggi si comportano come personaggi da commedia dell'arte, cioè secondo un loro ruolo. L'unico personaggio che abbiamo visto contraddire il suo ruolo, l'unico fra tutti, chi è? Charles. Molto bene. Va, con questo vi siete assicurati un 30 preventivo all'esame. Lo chiameremo 30 preventivo. Tutti gli altri fa Rodolphe, fa il seduttore burino, Léon fa lo smidollato, no? E anche questo piccolissimo personaggio. personaggio che è la bambina, Bert, vi prego di ricordare, perché è una cosa che vi chiederò sicuramente agli esami, e quindi siete avvertiti, perché Bert si chiama Bert, è stata chiamata Bert? Questo è un secondo lo che chiameremo 30V, 30V, intendo 30V, 30 virtuale, 30 virtuale, perché è un nome che aveva sentito nella serata alla Gobiessar, vi ricordate? Allora i bambini, come vi aspettate che reagiscono al dolore? Come si aspetta che reagiscano al dolore? E poi si dimentica, poi si dimentica. E qui cominciamo a sfiorare un qualcosa, i bambini si dimenticano, e gli adulti? No. Noi sì, diciamo così, nel senso che anche l'adulto poi è assediato dall'oblio, solo che l'adulto ha paura dell'oblio, perché se arriva l'oblio della persona amata, il dolore era un luogo di consistenza di sé, capite cosa voglio dire? Se io poi non riesco più a ricordare, togliamo la voce della persona amata, sono finito. Comunque per Bert le cose vanno a finire così. La madre, qui bisogna mettere, non c'è alcun dubbio, ma lui non vuole che si venda nulla. Inizialmente non vuole che si venda nulla. Non vuole che si venda nulla, la madre si incaponisce, ma lui fa la voce grossa. Quindi si oppone alla madre, guardate il personaggio come è cambiato, vi ricordate il personaggio giovane che scriveva delle lettere dal porto, dal collegio ogni volta, la mamma ogni giovedì, mi pare che scrivesse, eh? E adesso invece no, insomma, perché in realtà poi la possiamo vedere in questo corpo, vedete la fare del Dio Oca, eh? Cioè quando uno trova Dio, e Dio qui è la donna, quando uno trova Dio, poi è disposto a combattere per Dio, a morire per Dio, no? Tutti coloro che sono morti per i loro dei, uno si chiede, ma come si fa a morire per un Dio? Ma se Dio è la cosa più importante del mondo, vuoi morire per lui? Schattler non è credente, muore per questo Dio che è la moglie morta, che è la moglie morta. E noi vedremo che Charles non si risposa con nessun'altra donna, no? Nel corso delle cose umane questo capita, ma direi che c'era un film che aveva delle cose belle, che avete visto, qualche volta mi è accaduto di citarvelo, aveva anche cose brutte, che si chiamava Castaway, l'avete visto, quello del pallone, quello del Wilson del pallone. Quando lui torna, se non ricordo male, quando lui torna, trova la moglie che sta tornando, no? Vi ricordate di questo? Chi ha visto sto film? Bene. Solo una parte. Bene, mi piace questa precisione di ora. Solo una parte. E allora lui si rivolge alla donna per cui tanto ha fatto, ha sofferto, e gli dice con buone parole, gli dice, ma io ero morto, sono risuscitato, sono venuto qui, ti ho atteso, eccetera. E tu? E non gli dice brutta stronza, ma insomma, cioè, e tu ti sei messa con un altro. Risponde una frase che mi intenerisce al solo pensiero, che voi quando avrete molti anni di più, ma un numero tale che insomma avrete passato anche l'esame di francese, allora lei risponde in un modo meraviglioso, si stringe nelle spalle, un gesto di tenerezza e di viltà e di richiesta di pietà, e risponde così: ma dovevo pur vivere, dovevo pur vivere. Cioè uno non può vivere solo in un ricordo. Noi vedremo che a Sharon non occorre, ma se Sharon fosse vissuto, perché è una cosa bella quando uno diventa un vero letterato, è continuare i libri per suo conto, per suo conto. No? Cioè il libro me l'ha dato quanto Gustave Flaubert. E finisce lì. Ma come sarebbero andate le cose in seguito? A volte gli scrittori stessi ci fanno il seguito del libro, ma è molto bello quando il lettore immagina che cosa sarebbe stato Charles se non gli fosse accaduto quello che è accaduto. E perché è importante questo? Perché muove la testa, perché contrariamente a quello che uno di voi aveva scritto in quei moduli, che mi sembra una cosa che ho detto al terzo anno, un pochino improvvida, che la letteratura non deve essere mischiata con i racconti di vita che spesso faccio, rivendico il fatto che bisogna mischiarli con la vita, perché altrimenti la mia risposta è sempre la stessa. Se non si mischiano con la vita, la letteratura è inutile. La letteratura diventa molto meno interessante delle parole crociate. Capite bene? Mischiandola con la vita ci aiuta a capire la nostra vita interiore, che è poi lo scopo per il quale esistiamo. Chi non capisce questo, allora è meglio che abbandoni qualunque facoltà, non di lettere, ma dell'università, perché non ha capito il principio fondamentale del vivere. La letteratura serve a questo, a capire la propria vita interiore. Solo a questo serve. Quindi stavamo parlando dei debiti e stavamo dicendo che naturalmente tutti ne approfittano. Tutti ne approfittano. La madre abbandona, dopo tante promesse di rimanere con lui, di rimanere vicino al figlio, abbandona la casa. Le signorine, la signorina, non le signorine, no, era una sola. La Lampereur, quella delle lezioni di piano, vi ricordate? La Lampereur chiede 6 mesi, la qui avete capito che è bastarda, non aveva fatto manco una lezione, ma evidentemente una ricevuta falsa se l'era fatta fare Emma perché gli serviva. O chi è che chiede? Quello che dava i libri, l'Word Livre, chiede degli abbonamenti di 3 anni e la Rolli, sapete chi è? La Baglia. Ma questa Baglia era stata una sorta, come vi dicevo, di go-between, di intermediario fra Emma e Rodolphe, era quella che mandava le lettere e Charles chiede: ma perché queste che lettere? E l'altra dice: no, sono affari suoi. Qui c'è una frase un po' oscura che dice: lui richiese degli arretrati, cioè non erano state pagate delle visite, ma i debitori esibiscono delle lettere per cui non dovevo più pagarli. Questo non si capisce, Emma, che razza di pasticcio ha fatto per far vedere che non erano più pagabili quelle visite. E lui abbozza, anzi, chiede scusa. Felicity, che cosa fa una serva fedele quando la padrona muore riguardo ai suoi abiti? Me lo dice lei? Cosa fa? Li mette alla parte. I vestiti sono una cosa molto importante quando uno muore, sapete? Molto importante, perché alcuni si buttano via, altri sono belli, nuovi, poi lei ha un sacco di cose belle nuove. E Felicity li indossa. È molto da serva questo, devota, questo indossare i vestiti. Però lui non si lascia fregare del tutto, perché una parte dei vestiti li tiene per sé nel guardaroba e si mette poi a contemplarli. I vestiti sono importantissimi perché mantengono l'odore della persona. Se ci sono in un armadio, per esempio, un grande guardaroba, ci sono delle pellicce, e tu apri, o dei cappotti, tu apri dopo che la persona è morta questi armadi, tu sentirai proprio l'odore della persona che è rimasta lì addosso a quei vestiti che ti viene conto. E questo è dolcezza e strazio al tempo stesso. cose che dice la padrona, a un certo punto viene, perché lei va via con uno della casa, un servo, Teodoro, uno dell'ambiente, e ruba tutti i vestiti. Intanto ormai i vestiti, e questo è uno degli aspetti più tristi che ci sono, su cui Roberto, per la verità, in modo molto più cospicuo nel romanzo, nel grande romanzo, l'educazione sentimentale, perché i mobili sunt lacrime rente, gli oggetti fanno parte della nostra esistenza. Anche la vostra esistenza, di ragazzi che avete pochi anni e quindi avete pochi ricordi, però avete delle cose a cui siete affezionati, lei ce l'ha delle cose da affezionare. E devi dire uno a cui affezionare. Roberto, come bella, la medaglia di colore, sono bellissime. E gli oggetti invece, i soprammobili o cose di questo genere, un tavolo, ecco, come rimarrebbe se un giorno, toccando terra, lei e tutti, in un disastro della famiglia, lei trovasse in una vendita all'asta questi oggetti? Si rende conto? Ecco, questa è una scena meravigliosa dell'educazione sentimentale, quando il tavolino che era stato fra di loro nell'amore eccetera viene venduto all'asta. E qui il rischio per quanto riguarda Charles è proprio questo, il rischio che si verificherà, perché tutto viene venduto, non rimane più niente in casa. L'idea tragico greca di Flaubert, l'educazione della povera, è che quando si comincia a scendere non si finisce più. Come proprio dovete sentire questo slittamento verso la tragedia totale, senza più la possibilità di tornare indietro. O resta, diceva lui quando vedeva la serva che era vestita con i vestiti della moglie. Perché ma anche senza bisogno di apri l'armadio e vedi un vestito rosa che aveva portato la donna Marco. E la cosa conturbante che allunghi la mano, tocchi il vestito rosa e il vestito è vuoto. Odori, è lei, ma lei è. Semplicissimo e terribile interrogativo è quello che noi abbiamo sempre dopo la morte di una persona, come quello per esempio: butto via tutto o conservo delle cose? In genere si buttano via molte cose, ma altre le conservi, e non si sa se il conservare le faccia più male o più bene. Abbiamo detto che comunque alla fine questi vestiti sono stati rubati da Felicité, se ne va tutto. Leggiamo il capitoletto successivo che immediatamente viene dopo. Nulla interposita mora, cioè senza pause, nessuna mora, non mora, mora, è mora interposita. Capitoletto 50, il titolo è Trouble. La prima scoperta. Fu verso quest'epoca che Madame, la signora vedova Dupuis, ebbe l'onore di dargli la partecipazione del matrimonio del signor Léon Dupuis, suo figlio, notaio, ce l'aveva fatta diventare notaio, notaio a Yvetot, con la signorina Leocadine Boeuf di Bonneville. Charles, avete capito? Seguite? Subito dopo, signorina. Ha capito? Gli dà la partecipazione della mamma a lui delle nozze di Leo. Charles, tra le felicitazioni che gli mandò, scrisse questa frase: come la mia povera moglie sarebbe stata felice. Un giorno che, errando senza scopo era salito fino alla soffitta. Sentì sotto la pantofola una pallottolina di carta fine. L'aprì e lesse: «Du courage, Emma, du courage! Non voglio essere la disgrazia della vostra vita». Era la lettera di Rodolphe. Caduta a terra fra casse, ed era restata lì, e il vento del lucernaio l'aveva spinta fin verso la porta. E Charles restò assolutamente immobile e a bocca aperta in quello stesso posto dove un tempo, ancora più pallida di lui, Emma disperata aveva voluto morire. Infine scoprì una piccola R in basso sulla seconda pagina. Che cos'era? Si ricordò le assiduità di Rodolphe, la sua scomparsa improvvisa e l'aria imbarazzata che aveva avuto incontrandolo dopo due o tre volte. Ma il tono rispettoso della lettera lo illuse. «Si sono forse amati platonicamente», si disse. D'altronde, Charles non era di quelli che vanno al fondo delle cose. Indietreggiò davanti alle prove e la sua incerta gelosia si perse nell'immensità del suo dolore. Avevano dovuto, egli pensava, adorarla. Tutti gli uomini certamente l'avevano concupita. Ella per questo gli sembrò ancora più bella e ne concepì un desiderio permanente, furioso, che infiammava la sua disperazione e che non aveva limiti, perché era adesso irrealizzabile. Per piacerle, come se vivesse ancora, adottò le sue predilezioni, le sue idee, comprò degli stivaletti verniciati, cominciò a usare delle cravatte bianche, si metteva del cosmetico sui baffi, firmò come lei delle cambiali. Ella lo corrompeva dall'aldilà della tomba. Fu obbligato a vendere l'argenteria, pezzo per pezzo, e poi vendette i mobili del salone. Tutti gli appartamenti si svuotarono, ma la camera di lei, era restata come un tempio. Dopo cena, Charles saliva lì, spingeva davanti al fuoco il tavolo rotondo e avvicinava la poltrona di lei. Si sedeva di fronte. Una candela bruciava in uno dei candelieri dorati. Berta, vicino a lui, colorava delle stampe. C'è questo annuncio di nozze di Leon. Guardate come è ben studiato, cioè Rodolphe non si sposa perché è il coureur de femme, è il seduttore, è il signorotto, non ha bisogno d'amore, ha bisogno di sesso. E chi ha bisogno di sesso e non d'amore non si sposa certamente. C'è quel vecchio adagio che dice: in nessun posto si trova meno sesso che nel matrimonio. Leon si sposa. E si sposa diventato notaio, fate caso, lui era un sostituto di notaio, ma si fa carriera, è diventato notaio. E si sposa presumibilmente con una signorina per bene. Già il nome fa pensare a una persona raffinata, si chiama Leocadia. Non so se vi ricordate che Leocadia credo che fosse uno dei nomi che aveva pensato per la figlia, Emma stessa. Le Bouff de Bonneville. E Charles, e questo è uno scherzo, grottesco naturalmente, manda delle felicitazioni e cosa dice? Come mia moglie sarebbe stata contenta di sapere che Leon si è sposato. Ed ecco la prima scoperta. Un giorno sta camminando senza scopo in casa. Volevo fargli notare questo Sambu, perché mi è venuto in mente improvvisamente un grandissimo libro, che è probabilmente il più bel libro del Novecento italiano, tutto sommato. Tu conti se lo conoscerete, ed è La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda. Quando uno è solo in una casa, dopo che è rimasto vedovo, dopo che è stato abbandonato, la casa cacchia. Vorrei che mi ascoltaste su questo punto, capite? Cioè, quando ci sono dei bambini, tu non hai quasi tempo di renderti conto di che cos'è una casa. Perché fanno casino, perché si spostano, perché devi preparare la colazione, mille cose. Ma quando in casa non c'è più nessuno, ecco, le case senza nessuno sono degne di considerazione da parte della letteratura, tutti conoscerete, faccio un'altra citazione di cose somme, di cose che dovreste conoscere tutti, Il giardino dei ciliegi di Chekhov, ma sono quelle cose proprio somme. Quando in casa non c'è più nessuno, perché è morta la moglie, è morto il coniuge, i figli se ne sono andati via, non ci sono bambini, a che cavolo serve la casa? Uno si aggira nelle stanze, che spesso vengono coperte da lenzuola per evitare i mobili, che ci venga la polvere, insomma, ma con un grande senso di malinconia, e si muove nelle stanze senza sapere che cosa fare. È bello questo piccolissimo dettaglio del fatto che si muoveva senza scopo in casa, cioè vai da una stanza all'altra. Quando ci sono i bambini, quando c'è una vita, non si va senza scopo, no, non si va. E che cosa trova? Va alla soffitta e trova una pallottolina di carta, ed è la famosa lettera di Rodolfo. Che cosa vede? Vi ricordate l'emblematico incipit della lettera di Rodolfo, no? Quel vigliacco aveva cominciato la sua lettera esortando lei ad avere coraggio. Dice, coraggio, du courage, ma du courage, no? Ecco. E vi ricordate tutta quella sensazione che lei aveva, come se il foglio fosse di carta, fosse metallico? Ecco, perché vedete, quello che è importante quando uno ha a che fare con l'altro è certamente ricordarsi i dettagli, evidente, ma se i dettagli non te li ricordi, ricordare la sensazione che tu avevi leggendo. Ora, in questa scena di quando lei legge con ira profonda la lettera di congedo di Rodolfo, questa carta che si muoveva come fosse di metallo tra le sue dita, no? Che non riusciva quasi a tenere in mano, questa è la sensazione da ricordare. E allora comincia a chiedersi Charles. Intanto Charles rimane immobile e beato, cioè con la bocca spalancata. Poi vede subito la lettera R. Mette insieme Rodolfo che se n'è andato, Rodolfo che era imbarazzato, e tra l'altro volevo attirarmi su qualcosa che Flaubert, l'autore stesso, ne era disgustato di quello che scriveva, perché la situazione, avrebbe detto Flaubert arrivò a detestare la povertà. Avete capito bene quello che vi dico? Arrivò a detestare il libro che gli aveva dato la gloria. Disse, ricordatelo bene, se ci fosse la possibilità di andare in tutte le librerie di Francia e prendere, e allora si leggeva 150.000 volte più di adesso, e prendere sommo artista, l'aveva scritto come poteva scrivere Shakespeare o Mozart nel loro campo, no? Ma questa storia dell'adulterio, della pallottolina in carta, di questo cretino che mente a se stesso, che è sciaro, tutto questo era così miserabile. Ed era la miserabilità della sua storia che non sopportava più. Il fatto che dopo uno sia costretto a fare delle ipotesi, delle supposizioni, i cornuti, come si dice, non credono mai, è incredibile. Chi ha una disgrazia a volte non capisce di averlo. Conoscevo un bastardo medico, che Dio lo strafotta di eternità, un grande medico, strafotta è poco, perché poi strafotta vedete legato a fatti sessuali, e io invece vorrei per lui un tormento permanente, non una sodomizzazione, non basterebbe, una sodomizzazione anzi può anche essere piacevole, insomma. Ha capito? Costui era un medico che quando si avvicinava a un paziente e la moglie era malata di cancro, irrimediabilmente gli faceva un sorriso, gli dava la mano e gli diceva dopo l'operazione. E lui stava, il marito dell'operata naturalmente, stava a sentire con il cuore in gola quale sarebbe stato il responso, gli stringeva la mano con un sorriso e gli diceva condoglianza. Neanche un colpo di pistola in testa poteva essere più spaventoso. Ebbe un cancro. E non se ne accorse. Era uno dei maggiori medici di Roma, si chiamava Paride Stefani. Che Dio possa ammazzare nell'eternità. Miliardario, come tutti i grandi medici delle grandi città. E i cornuti non si accorgono. È doloroso doverlo dire, ma è anche il senso della nostra volontà. Chi è tradito non lo sa. Cioè a volte noi lo vediamo, sappiamo benissimo che la nostra amica ha un paio di corna che l'intero parco d'Abruzzo riuscirebbe a contenere, 100.000 cervi farebbero a gara con lei perdendole dalle corna che ha. Ma lei non capisce. Questo non capire del conduto, questo. Chiamiamola così e la mettiamo a capo del letto, la chiameremo l'ignoranza del conduto. È qualcosa di molto tenero, di molto dolce, perché lui vuol difendersi contro le consapevolezze, però non è, lei non ha il fidanzato, è il momento attuale che conta, il passato non conta assolutamente nulla. È una gran cosa, non avendo il fidanzato non si hanno le cose. Adesso prendiamo la menzione che lei ha il fidanzato, e quindi che ne sa in questo momento preciso che cosa fa il suo ragazzo, che cosa fa? È al lavoro. È facile, e tutti sono al lavoro, pensi un po', si sono amati forse platonicamente, però e qui sentite un altro frustata del genere di Flaubert, dice la gelosia in lui ci fu, ma il dolore era tanto che la gelosia non poteva aver preso. Vi faccio un esempio. Se gli hanno fatto una laparotomia senza anestesia, e vi viene un furuncoletto nella narina, inserite la laparotomia, non ve ne rendete conto. Se uno lutto per la morte di una persona, un altro tipo di dolore, siamo fatti di materia, quindi siamo umanamente semplicissimi da studiare. Hai un dolore più forte? E allora il dolore più piccolo non lo senti. Vi sarà capitato a voi, specialmente se avete una sensibilità letteraria, non quella di quel tale che ha detto che la letteratura e la vita non stanno insieme, che forse ancora in quest'aula. Il pensiero di questa risposta mi aveva turbato, quindi. Dunque, penso il loss rate trade. Il dolore più grande che può spendere quello più piccolo, aspettate se lo ritrovo, se no non ha importanza. Sì, appunto, appunto. Cioè noi non possiamo sopportare troppi dolori. E questo è il punto, no? Non possiamo avere un dolore fisico enorme e anche un dolore morale, se a un certo punto bisogna fare una scelta. Ah, ecco cosa volevo dire! Ecco cosa volevo dire, vedete che mi sono con un guizzo sottratto all'Alzheimer. Con un guizzo sottratto all'Alzheimer. Quando uno non c'ha niente, perché tutto gli va bene, deve trovarsi spesso punzonetto nel culo piccolo, non per farsi del male, un pensiero brutto. E quando ti viene un pensiero brutto dici: ma porca miseria, ma stavo così bene prima, ma come mai mi viene questo punzonetto? Avete capito cos'è? Uno spinino, una cosa del genere. È perché stai bene, perché se stessi male non ti verrebbe, non ci baderesti. E quindi sentite la verisimiglianza umana di questa situazione. Lui è geloso, e geloso fa star male chiunque l'essere geloso, però è talmente pieno di dolore che non ci bada la gelosia. Che non ci bada. E d'altra parte, guardate che grandezza, dice, d'altra parte l'amavano tutti. Come si faceva ad amarla? Come si faceva ad amarla? Questa è una grande prova d'amore, cioè dire, se l'hanno amata è perché era degna di essere amata, in fondo, no? In fondo avete mai pensato una cosa, che nella fiaba dell'amore per Dio, uno al limite potrebbe essere, almeno secondo il mito cristiano, potrebbe essere geloso. È vero, perché io amo il Dio legato a Gesù Cristo, eccetera, però il fatto che lo amino anche altri, io potrei arrabbiarmi. Ma come ami anche tu Gesù Cristo? Voglio amare solo io Gesù Cristo. E l'altro gli risponderà: bastardo, lo amo anch'io Gesù Cristo. Dice: ma allora Gesù Cristo non è più solo mio. Ci pensate? Cioè l'amore di per sé è geloso. Se uno non è più geloso è proprio perché l'amore è infinito, o perché il dolore, quindi la fattispecie, è infinito. E comincia ad adottare dei suoi vizi. Ma da vedere cosa fa? Si mette il cosmetico, perché a lei piaceva così. D'altra parte non sapete quale tutto questo è vero. Io per motivi simili a questi, per esempio, io non metterei per niente al mondo, perché ognuno ha avuto la storia della sua vita, io non metterei per niente al mondo una camicia bianca, per motivi che stiamo leggendo. Perché a mia moglie non piaceva. Quindi uno non mette la camicia bianca, però lui arriva, fa molto peggio, mette le cravatte bianche fin qui a benissimo, firma delle cambiali, cioè sarebbe come se lei fosse stata una ladra e allora anche lui per amore diventa ladro, capito? rimasi. Aveva adottato le sue predilezioni, le sue idee, comprò cravatte bianche, lei lo corrompeva dall'aldilà. Vendettero tutti i mobili, ma la camera di lei rimase intatta. Si sedeva, lui, questa è una cosa molto normale, si sedeva come se volesse parlare, con la sua poltrona davanti, no? E intessendo dei discorsi. E vicino c'era Bert, la piccola Bert, che colorava delle stampe. Proviamoci bene, ci vediamo.